Woo! Due, zero, uno, cinque, sei, quel cazzo che... Sai che la mia merda è forte come crack. Vito sfonda potere correre come crack. Quando troppo un'altra track, senti foto tipo patatrack. Patatrack, patatrack. Io correggo, non ti insegno, ti imparo. E non è che la ci insegno, ti impalo. E non è che faccio il culo bro di lagno. E non è che faccio il duro il flow di taglio. Rimani calmo tanto non colmi di barico. Rimani calmo come un divaglio di canico. Dammi tutto quello che c'è in panico. O per il grano mi spacco il cranio come Super Mario. Sì, sì, cario, sì, piano, picchia tipo titano. Pitta con G, chiaro. Una hit, ogni split, cato, ci chiamo. Con la click nel tuo tipano, ci chiamo. Non facciamo roba pittano, qui siamo. Perché darti la partita pittano, ci siamo. Giriamo la quinta come Icaro, ci siamo. Ci batti nel calendario, Inca e ci siamo. Zero pace da star, parla con i freddi come farcela da. Ora mangiamo, lasciamo mangiare da zar. Te devi levare da cazzo, devi farcela passare. Sattore poi il palco rimbalza. Spacco becco un sacco di cassa, tu pacco di pasta. Ho sto d'arresto, ma grazie di stato. Perché sopra il pizzo non è stato di grazia. La mia roba tolta anche da porta Sanzara. Tu ne fai vita cotta se non Zanzara. Vado finché non collasso tipo la Spagna. Ma se non vi lascio un cazzo tipo Tasmania. Esco con l'album e spacco la piazza. Bevo fin quando ti sbratto la tazza. Sto così fatto che in bocca all'impasto c'ho il cazzo che è un altro fantasma. La mia merda è forte come crack. Vito sfonda potere correre come crack. Quando troppo un'altra track, senti foto tipo patatrack. Patatrack, patatrack. Non mi fotti con tuo flow e me non smette. Il tuo rapper preferito perché non smette. Le sue barre cancellate dal mio solvente. Le sue cagne accecate dal mio gold band. Molte erbe come propellente. Tu diventi verde come Denver. Non puoi fare niente, sono il top de Denver. Non mi batterebbe neanche un top ganger. Sono bulletproof, sono Duke Nuker. Spacco su subwoofer, non su tumbler. Io sono un beretto verde.